Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che ha raggiunto la sua ultima puntata di un anno vissuto dal Comitato Ricerca Associazione Pionieri, cioè dal CRAP, in modo molto intenso tra convegni, mostre, attività editoriali, dibattiti, fumetti, e tutto questo si è riflettuto evidentemente anche nella nostra trasmissione settimanale. E allora facciamo un bilancio di questo anno vissuto così intensamente, andando a ripescare dei momenti radiofonici che hanno in qualche modo sottolineato alcune iniziative particolarmente rilevanti del CRAP in questo anno accademico 2023-2024, che è partito ad ottobre e finisce qui a giugno. Allora, cominciamo la nostra retrospettiva ritornando a quel 7 ottobre che ha visto iniziare le attività del CRAP, e lo ha fatto con un appuntamento quasi tradizionale a Villa Paradiso, con esposizioni di manifesti e un dibattito su un argomento estremamente cogente, cioè quello della censura nel fumetto. Le esposizioni rappresentavano il pioniere Rodari da una parte, dall'altra significativamente riportavano le scandalose copertine del male di Pino Zac. Diversi interlocutori chiamati a queste conversazioni, cominciando con lo storico Marco Fincardi, Elettra Stambulis, nota esperta e critica di fumetti, nonché docente alle nostre belle arti, Giuseppe Chiarello, dell'Istituto d'Arte Vinicio Berti, e Palumbo, noto disegnatore di fumetti. Per avvicinarci a questo appuntamento abbiamo ancora parlato di censura, interpellando Riccardo Mannelli, noto vignettista anche del Fatto Quotidiano, che aveva appena pubblicato il suo libro Satira Madre, quindi davvero con i piedi nel piatto. E Mannelli ci parla anche dell'insostenibile pesantezza del politicamente corretto. Per me negli ultimi anni è stato un tormento questa cosa, soprattutto perché viene da delle realtà che sono storicamente appartenevano, diciamo, alla mia formazione culturale e che invece si sono inaridite in questo percorso, in questa strada senza via d'uscita. Non c'è scampo con questa logica. È una cosa che mi deprime da molto e che dobbiamo continuare, sempre avendone voglia, e io non voglia, dobbiamo continuare a dire quello che ci passa per la testa. È semplice la cosa, capisci? Bravo. Per un artista poi è quasi doveroso, voglio dire, altrimenti decade la qualifica, insomma, in qualche modo. Sì. L'artista serve a questo, serve a stimolare, serve a pungolare, serve anche a smaronare. Perché se non si esce dai binari, se non si va fuori strada ogni tanto, è difficilissimo di contravedere anche, diventano provocazioni inutili, mentre tu volutamente vai su altri territori e spesso capita anche di pestare una merda, voglio dire. L'artista serve anche a questo, insomma, a far intravedere dei lampi che possono illuminare qualche cosa di misterioso, no? E dopo il Bavaglia Paperino un'altra iniziativa, un'altra esposizione di manifesti, questa volta all'Istituto Storico dell'Università di Bologna, e un dibattito sull'Associazione Pionieri Italiani, ancora con lo storico Marco Fincardi e con Luciano Sita, allora pioniere e coautore di Pionieri a Bologna con Sergio Martelli. Ma come nacque l'Associazione dei Pionieri di Carlo Pagliarini ce lo spiega proprio Marco Fincardi. Nel 48 viene incaricato di cominciare a preparare quella che poi diventerà l'Associazione Pionieri d'Italia e il giornalino Il Pioniere, che coinvolgerà Gianni Rodari, Dina Rinaldi e moltissimi disegnatori e autori di testi che immagino gli ascoltatori di Radio Fujiko conoscano, perché ci sono state diverse trasmissioni sull'argomento. La cosa importante di questa Associazione Pionieri, al di là di quella che è stata la sua storia, che è durata fino agli anni 50, poi ha avuto delle continuità con vari campeggi che hanno continuato a organizzare i ragazzi che erano stati coinvolti nell'Associazione Pionieri, poi ha dato sbocco, sempre diretta da Pagliarini, all'Arci Ragazzi, ma al di là di questo è stato un percorso che, al di là della vita associativa che ha coinvolto poco più, circa 150.000 ragazzi negli anni 50, è stata un'attività importante perché è stato qualcosa che ha coagulato e ha mobilitato attorno a sé quelle che erano le avanguardie pedagogiche di quegli anni. Quindi parliamo di tante figure, a parte Rodari stesso, ma Bruno Ciari, Mario Lodi, tante figure, soprattutto Ada Gobetti, che è stata molto attiva nella collaborazione con l'associazione e nel promuovere poi una nuova rivista dell'associazione a carattere pedagogico, esperienze educative, ma anche Concetto Marchesi, ecco, tante figure dove veniva mobilitato anche un associazionismo degli adulti. Parliamo dell'Unione Donne Italiane, parliamo delle associazioni sindacali, del movimento cooperativo, in un progetto di cambiare il destino dei ragazzi, di avviarli a un tipo di attività culturali che per il mondo operaio, contadino, che usciva dalla guerra, erano cose impensabili. Era un universo negato, insomma. Certo, ecco, quindi si è aperta una strada che prima sostanzialmente non esisteva. Prima c'erano state le associazioni di massa del regime fascista che intruppavano, che educavano a un'educazione militaresca, anche di sopraffazione, cose di questo genere. La resistenza invece, nella interpretazione che ne dà Pagliarini, è quella proprio di avviare un destino nuovo ai ragazzi e quindi di coinvolgere in attività creative, in attività anche di gioco, di esplorazione delle città, delle campagne, di comprensione di quello che è la società e il mondo del lavoro, che è un'esperienza del tutto inedita per l'Italia. Esisteva già in altri paesi del centro-nord dell'Europa, ma in Italia era qualcosa di assolutamente inesistente prima. Sempre in questo ottobre molto intenso per il CRAP, l'associazione ha un po' saltato la barricata, nel senso che non solo ha fatto ricerca, ma ha provato a cimentarsi anche nella produzione di fumetti. E così nasce questo Volare Alto in Periferia, un graphic journalism che fa seguito alle Nuvole in Periferia, ovvero sia un workshop svoltosi nella zona Pescarola del quartiere Navile. Questo è un percorso dedito alla costruzione di un tessuto giornalistico in fumetti, costruito su vere storie di abitanti del territorio. La novità sociale di questo workshop è stata nell'aver incrociato figure sociali che difficilmente altrimenti si sarebbero incontrati in altri contesti. Da una parte, ragazzi aspiranti fumettisti provenienti dall'università festa o dalle belle arti, dall'altra ragazzi del quartiere in età tra i 14 e i 20 anni. Il tutto coordinato da alcuni tutor per assicurare la qualità del percorso e la disciplina creativa, un coordinatore per l'informazione proveniente dal mondo del giornalismo e un altro con esperienze fumettistiche alle spalle. A questi operatori culturali sono poi aggiunti militanti del CSI di Bologna, tra medici e antropologi che hanno assicurato i rapporti con la popolazione locale, e anche un'operatrice delle strips per la grafica e il lettering. Si è cominciato con l'effettuazione di una serie di interviste con personaggi rilevanti della Pescarola. Sul materiale acquisito si è poi passato alla costruzione di una sceneggiatura capace di cucire in un'unica trama le voci raccolte. Questa prima traccia si è poi tradotta in un vero e proprio storyboard, base infine per i disegni definitivi e la costruzione delle tavole del racconto. Tutto questo processo così articolato è stato elaborato sempre in maniera collettiva, affrontando anche le difficoltà di articolare tra le loro diverse sensibilità e differenti tratti nel disegno. Una sfida vinta sia sul versante sociale che su quello creativo. Abbiamo interpellato, per sapere un po' il percorso di questo workshop, Marta Agone, che è stata artefice della grafica e del lettering. Marta, insieme ad Antonella siete un po' i tutor di questo workshop. Quali sono le maggiori difficoltà con delle ragazze, le prime esperienze nell'ABC del fumetto? Ma allora, secondo me in realtà siamo state molto fortunate, perché abbiamo trovato nel gruppo di lavoro delle persone in primis molto disponibili ad ascoltare, ma anche che avevano un interesse molto viscerale per il media, quindi da un certo punto di vista spesso loro sono state in grado di fare dei passi da soli senza che noi gli dessimo nessun input. Però sicuramente la difficoltà è stata per lo più, dal mio punto di vista, non tarpare le ali mentre si danno delle basi di tecnica, perché le basi di tecnica spesso sono quei paletti che poi vanno a eliminare l'estro, la parte un po' più creativa. Però secondo me si è riusciti a creare un buon equilibrio tra le due cose. E come si lavora in gruppo? Ma io in realtà, venendo dal mondo dell'autoproduzione, dall'editoria indipendente, per me è molto standard lavorare in gruppo, anzi si lavora molto meglio, perché più teste danno più input, danno più idee, e spesso quello che non si riesce a trovare da soli lo si trova nel confronto. Quindi secondo me è stato sicuramente il miglior modo per lavorare a questo tipo di progetto, soprattutto perché è un progetto che nasce collettivo e senza la collettività non avrebbe avuto senso. Nella storia c'è la parte legata al reale dell'intervista, un'altra parte fantastica. Si può parlare di graphic journalism? Sì, è un taglio particolare del graphic journalism, che in realtà è molto simile a una tendenza più contemporanea, almeno tipo degli anni 90-2000, che è quando nasce il graphic journalism, che è quello di fare una crasi tra il fantastico e il reale. E secondo me ha fatto sì di creare delle situazioni che fossero sia di escapismo nella realtà del quartiere, sia delle forme per divertirsi un po' nel disegno e per divertirsi con la storia, perché la realtà comunque è molto disarmante, non ha a volte degli spiragli narrativi così divertenti. Invece i ragazzi e le ragazze hanno scelto di mettere delle parti fantastiche, secondo me anche per divertirsi con la materia prima. E infine a te, Marta, questa esperienza cosa ha dato rispetto alle tue conoscenze passate, alle tue esperienze passate? Io, per me, uno dei miei sogni personali come Marta, Punxo e Marta, diciamo, è quello di lavorare anche con il rapporto dell'insegnamento, magari una collettività, e con il media fumetto. Quindi per me è stata la realizzazione di il primo passo in una cosa che mi piacerebbe fare sempre. Quindi io sono super soddisfatta, vedo l'ora che il progetto vada avanti e che veda la sua parte conclusiva, perché secondo me lì avremo delle grandi sorprese, diciamo così. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. soffia la sua armonica, che voglia di piangere, ho Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, ho. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Yeah. Queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, ho Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Con l'inizio del 2024, a gennaio, il CRAP ha portato in sala borsa l'opera di Collodi, Pinocchio, la più grande favola della letteratura italiana e non solo. E lo ha fatto tramite un collante, il Pioniere, che ha messo a fianco disegnatori che hanno tratto da Pinocchio la loro ispirazione. Dunque due produzioni alla sala borsa, una quella legata alla ricostruzione di Pinocchio, proprio appuntate sul Pioniere di Raul Verdini, disegnatore, e con le filastrocche scritte da Gianni Rodari. E in parallelo un'altra esposizione, 30 litografie di Vinicio Berti, altre 30 litografie di commento a queste prime, che lo stesso Berti ha redatto nel 1981, riprendendo un libro che lui stesso ha scritto in questo nuovo Pinocchio, estremamente rivisitato, già nel 1947. Dunque due modi di interpretare Pinocchio assolutamente differenti tra di loro. Uno apparentemente semplice ma complicatissimo da fare, lineare, schietto, sereno per i bambini, quello di Gianni Rodari e Raul Verdini, e quello invece drammatico, inquietante, direi per adulti, di Vinicio Berti. In questa occasione di esposizione alla Sala Borsa abbiamo avuto anche l'occasione di sentire il commento, l'analisi di un esperto di Vinicio Berti, questo pittore fumettista. Le parole sono quelle del dottor Roberto Sottile. Beh, bisogna dire innanzitutto che la ricerca di Vinicio Berti è una ricerca che fonde in maniera armoniosa non solo il fumetto ma anche la pittura, quindi in realtà parlare di Vinicio Berti come artista significa raccontare quello che è il suo percorso non solo pittorico ma anche fumettistico. Il rapporto con Pinocchio è un rapporto speciale, un rapporto davvero unico quello che ha Vinicio Berti. È un soggetto naturalmente che Berti tratta diverse volte, lo tratta già negli anni 40, nel 47 per una prima pubblicazione su Toscana Nuova, lo tratta in occasione del centenario di Pinocchio, lo tratta attraverso le varie pubblicazioni con il Pioniere, quindi è un personaggio che rappresenta in qualche modo un po' lo stesso Vinicio Berti, perché in realtà Berti inserisce nel suo Pinocchio quelle che sono un po' le sue contestazioni, il suo grido verso una società, che era una società appunto in quegli anni in cui Berti lavora, che doveva in qualche modo restituire al popolo la voce. Quindi il Pinocchio di Vinicio Berti non è altro che in realtà è lo stesso Vinicio Berti che diventa voce per il popolo. Infatti questo Pinocchio è un Pinocchio che lui definisce proprio un personaggio, diciamo, popolare, povero tra i poveri, no? E quando racconta del burattino anche nelle litografie che poi saranno di commento, di accompagnamento a quelle dipinte. E queste 30 litografie di commento sembrano davvero, come diceva lei, un manifesto politico, devo dire. Sì, sì, in realtà è proprio un manifesto politico con una particolarità, una narrazione davvero di tipo cinematografico. Non solo la bellezza di questo segno, del disegno di Pinocchio, ma anche la capacità nelle tavole di commento

In questo caso, avendo qui a Macerata un museo molto bello, molto interessante, che è il Museo della Scuola Paolo e Ornello Ricca, abbiamo chiesto alla referente, alla coordinatrice del museo, visto il loro immenso archivio, se avessero appunto delle copie del pioniere. E così è stato, abbiamo trovato queste copie che ci sono state gentilmente concesse e che sono esposte insieme alla mostra, proprio da noi. E da lì poi è stato fatto anche tutto un lavoro di ricerca per promuovere sui social il lavoro, la mostra, per raccontare un po' quello che il visitatore poteva trovare venendo a visitare la mostra. E quindi partendo dalle copie cartacee e poi andando a vedere anche gli altri lavori, gli altri pionieri, è stato fatto anche quello sul carnevale, raccontato un po' come il pioniere proponeva la realizzazione delle maschere di carnevale. Ecco. Questa terra è la mia terra, anche se è cambiata già un bel po'. Sembra un albero piantato, ma nessuno può sapere dove sto. Un microfono e un pennello, le mie tasche sono piene già così. È con quelli che vi mando cartoline. In ultimo veniamo tra il 25 aprile e il 1 maggio, quando abbiamo esposto al Mercato Sonato queste 80 tavole di vignettisti contro la censura. Quindi torniamo a dove siamo partiti in qualche modo, lo facciamo con questa mostra collezionata dal BLIF, la Biblioteca di Firenze dei Fumetti, Davide Morena e Giuseppe Ciarello, critico letterario e anche operatore di fumetti. A loro la parola. Beh, è un po' un meta argomento, nel senso è un argomento che li racchiude tutti e questo ci è piaciuto. Per il discorso, per esempio, come si diceva, se parliamo di immigrazione, comunque l'immigrazione di cui noi parliamo è, a parte chi magari sta sulle spiagge a vedere quello che succede a Lampedusa, è filtrata dai mezzi di comunicazione, quindi di fatto il ruolo del giornalista è del potere che c'è dietro, che è quello che comunque purtroppo preoccupa chi fa satira, evidentemente è anche quello problematico. In questo senso quindi noi, come poi è accaduto, ci aspettavamo che le vignette potessero parlare di argomenti diversissimi fra loro, locali quanto nazionali, quindi magari la vignetta sulla Meloni speriamo passi presto di attualità, ma altre poi riguardavano Trump o semplicemente l'aspetto simbolico del rapporto fra media e potere, quindi anche una cosa che non si lega assolutamente all'attualità, ma lo è e al tempo stesso è anche al di là dell'attualità e quindi più dura, purtroppo continua a dire più duraturo. Giuseppe Ciarallo, ti chiedo, gli autori di satira oggi, di vignette, hanno delle difficoltà? Quanto vengono censurati e anche quanto si autocensurano per rispondere anche a temi come quelli, o modelli come quelli del politicamente corretto, per esempio? Sì, questo è un problema molto grande che ovviamente ogni autore affronta attraverso la propria sensibilità. Non c'è dubbio che al potere da sempre piace la satira che non nuoce. Quindi quando il politico o il potente di turno ride, sorride, si diverte alla satira che viene fatta della sua persona o dei suoi comportamenti, significa che qualcosa non funziona, il bagaglino non è satira, ecco, parliamoci chiaro e tondo. È ovvio che invece quando nascono delle discussioni, seno al popolo, alla gente che comunque fruisce della vignetta, del fumetto, dell'illustrazione, allora la satira ha colto nel suo segno. E con questa retrospettiva radiofonica noi concludiamo questa stagione 23-24 di Fumetti a Sinistra, Un Mondo Dentro il Balloon, un po' di vacanze, poi ci ritroviamo sicuramente ad ottobre. Ciao a tutti. Uh-huh.